po' di pietà per tuffarsi ancora in mezzo ai colori di mille girasoli. Un po' di pietà per avere il tempo di non essere d'accordo o di cambiare il mondo. Quando il tempo di sognare, il tempo di sbagliare, il tempo di scoprire ti è negato dall'orrore, e in quel momento in cui l'alba ti sorride, qualcuno spegne il sole, buio ti aggredisce. Era bevuto, era arrabbiato, era felice, terrorizzato, ma c'era bisogno, non c'era altro modo. Nel deserto di cuori senza volto, nel silenzio della notte urla la vergogna dell'onore, nel disprezzo di chi muore c'è l'oltraggio a chi piange. Era bevuto, era drogato, era felice, terrorizzato, ma c'era bisogno, non c'era altro modo. Un po' di pietà che concede al che è nemico, nella guerra della vita che combatti ogni giorno. Un po' di pietà non conosce, inebriato dall'odore del sangue e del dolore. L'avete visto insanguinato e non c'è stato neanche un minuto.